Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricelli in regia. La notizia calcistica più eclatante di giornata è che l'Inter è riuscita a sbolognare finalmente Riccardo Quaresma. Lo ha sbolognato al Besiktas, club turco, che avrà la bontà di versare all'Inter 7,3 milioni di euro. Notizia calcistica più eclatante di giornata, perché ai mondiali, insomma, in una partita e due terzi quasi abbiamo visto solo lo straccio di un gol. Oggi la Slovenia ha conquistato la prima vittoria europea, sua prima vittoria nella storia ad un mondiale, e la prima vittoria europea a questa edizione sudafricana. 1-0 sull'Algeria, gol al 79esimo di Koren, capitano sloveno, ma soprattutto una paperaccia da coprirsi gli occhi di Koshy, portiere dell'Algeria, dopo che Ghezzal era stato espulso. La prima partita di giornata è in sostanza tutta qui e va a chiudere il girone dell'Inghilterra, iniziato ieri con questo 1-1 tra Capello e gli Stati Uniti. Facciamo un salto invece a Pretoria, dove c'è Dario Ricci a vedere per noi Serbia-Ghana. Ciao Dario. Buonasera Carlo, buonasera agli amici in ascolto. Siamo al 58esimo di gioco quando Pantelic in avanti fa il cross dell'attaccante serbo a rientrare all'altezza del cerchio, non trova nessuno. Ghana-Serbia ancora ferma sullo 0-0 qui al Vossen Veldel di Pretoria, un Ghana che come d'abitudine direi ha avuto nella maggior parte del tempo di gioco il controllo del pallone, ma che come d'abitudine anche in questo caso non ha trovato finalizzatori all'altezza. Pochi istanti fa Ayew con un colpo di testa ha sfiorato la porta di Stojkovic, poi al decimo della ripresa ci ha provato Boateng con un tiro da fuori al lato, e anche nel primo tempo ci sono state un paio di buone occasioni, ma è un Ghana che fa fatica a concretizzare in area di rigore tutta la mole di gioco che produce. Dal punto di vista della Serbia, direi finora prova deludente da parte dei serbi, con Stankovic sottotono e anche Tadic, quello che è l'oggetto dei desideri della Juventus, protagonista di alcuni brutti errori. Intanto Pantelic, il cross ed è questa volta forzata, anticipare Tadic, questa volta era buona la considerazione dell'attacco serbo, il cross di Pantelic dalla sinistra, e Tadic anticipato all'ultimo momento da forzare. Siamo Tadic quanto mai deludente, ha sbagliato molti palloni semplici nel primo tempo, adesso sta cercando di rientrare in partita. Poi Dario, ti chiederò di a fine partita di analizzare un po' la partita di Krasic a beneficio di tutti, soprattutto gli juventini che ci ascoltano. Come avete sentito, le VVZ arrivano prima, ben prima della voce del nostro inviato. A più tardi, naturalmente, con Dario Ricci, che ci terrà il polso di questa partita. Io vi dico la verità, mi sto un po' annoiando fin qui a questi mondiali, ma credo anche voi, no? Si parla delle trombette, si parla di mille temi collaterali, ma di calcio un pochino. Spero che gli ascoltatori oggi mi diano un po' di soddisfazione in attesa dell'Italia, che speriamo possa aprire almeno dal punto di vista dei temi sportivi questo mondiale, almeno per noi. Spero che gli ascoltatori mi diano soddisfazione all'800240024, numero verde, messaggi 349-238-6666. Dopo il traffico ci risentiamo. Strade in diretta. Sull'Autosole code di circa un chilometro per un incidente fra il bivio per la 24 e la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze. Restiamo sulla 1 ma ci spostiamo in Emilia. Un gentile ascoltatore ci segnala forti grandinate nella zona di Bologna. Traffico rallentato e a tratti fermo tra Bologna e Modena. Prestate dunque la massima attenzione. Trafficate le autostrade lungo le nostre coste. Sulla 10 Genova 20 miglia code a tratti tra Borghetto e Savona verso Genova. Sulla stessa carreggiata code a tratti tra Celle Ligure e la 26 dei Trafori. Trafficata poi la 12 Genova Livorno con code tra Chiavari e il bivio per la 7 in direzione del capoluogo Ligure. Restiamo sulla 12 ma sul tratto Roma Civitavecchia. Traffico e automobilisti incolonnati tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma. Traffico intenso anche sulla 14 Adriatica con code a tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro in direzione dell'Autosole. In Toscana sulla 11 Firenze Mare traffico intenso tra il bivio per la 12 e Prato verso Firenze, mentre sulla Firenze Pisa Livorno code a tratti tra Vicarello e la diramazione per Pisa in direzione del capoluogo toscano. Infine sulla 26 dei Trafori si formano code tra Masone Ovada in direzione Gravellona Toce per lavoro. lavori urgenti. Se siete in viaggio e volete farci qualche segnalazione, ricordiamo il nostro numero verde 800 08 36 22. È tutto, a più tardi. A tempo di sport. Come dicevo, non mi sto divertendo per niente fin qui. Non so voi, 800 24 0024 è il numero verde. Se avete qualche tema che vi abbia fin qui colpito al di là delle vuvuzelas, che ad esempio da un ascoltatore, ripesco un messaggio di prima: seguo il mondiale con nervoso, non ne posso più di questo ronzio, posso capire le tradizioni, ma queste trombe sono diventate odiose. Va bene i colori africani, ma basta, per favore, scrive un ascoltatore che si chiama Giulio. Noi poi siamo molto permalosi anche su queste cose, ci infastidisce un po' tutto. Però finché si parlerà di vuvuzelas, come si continua a parlare di queste trombette, vuol dire che di calcio se ne è visto poco. Saluto e ringrazio Massimo Calegari, che è nella nostra squadra dei mondiali e vi terrà compagnia in qualche serata, quelle che mi prenderò libere durante la settimana per i nostri speciali. Vi ricordo, dalle 21 alle 22:30 tutte le sere, dal lunedì al venerdì, e quando c'è l'Italia, come ad esempio domani sera, anche più a lungo, si arriva fino alle 23:30 per far parlare tutti gli ascoltatori che ne avranno voglia. Ciao Massimo. Ciao, buona domenica, buon mondiale. Buona domenica e buon mondiale anche a te. Speriamo che sia buono, perché dall'inizio non sembra. No, insomma, sto cercando i temi. Il calcio migliore ha fatto vedere la Corea del Sud, con una Grecia che però invece mi sembra la squadra peggiore e più triste di questo mondiale. Aspetto di vedere le altre, ma davvero una squadra di gatti di marmo, anzianotti. L'Argentina è stata criticatissima e vorrei partire con te da questo argomento. Criticatissima, secondo me, non con tante ragioni, perché primi 10 minuti, quarto d'ora dell'Albi Celeste a me è piaciuta, al di là di Maradona. Poi ha trovato il gol dopo 5 minuti. Nel secondo tempo non è riuscita, impigrendosi un po' sulle magie di Messi, a trovare il raddoppio, però tutto sommato ha battuto la Nigeria, che non è una squadra tra gli ultimi arrivati, soprattutto nel continente che ospita il mondiale. Ricordiamo Nigeria protagonista, tra l'altro, con l'Argentina della finale per l'oro olimpico. Insomma, l'Argentina ha fatto il suo, un po' cattivi tutti con Maradona. La sensazione, soprattutto, che sono stati cattivi quelli che non avevano seguito il percorso dell'Argentina, oppure l'avevano fatto aspettandosi poi che qualcosa cambiasse dalle qualificazioni mondiali e dalla gestione Maradona a questi mondiali, nel senso che le caratteristiche della squadra sono queste, nel bene, quindi nella esaltazione assoluta delle qualità individuali di una squadra che ha più talenti tra tutte le grandi nazionali, e nei difetti, cioè nelle carenze di equilibrio in alcuni ruoli, gli esterni di difesa, e in un uomo che potrebbe risultare poi il problema centrale di questa squadra, che è Veron, che ha lasciato l'Europa e l'Italia da 4 anni, gioca nel modo in cui abbiamo visto giocare ieri da parecchi anni alle Estudiantes e con la nazionale, ed è questo. Quindi poi lì Maradona si prende probabilmente le più grandi responsabilità della sua gestione, al di là di altre scelte. D'altra parte, l'Argentina aveva bisogno di un allenatore, e quell'allenatore è Veron. No. Sì, in campo sì, in panchina c'è un oracolo, un guru, che fa tutto quello che un allenatore, per come ormai siamo abituati a concepire quel ruolo, non dovrebbe fare, cioè esulta in maniera scomposta come se fosse in campo, ha un rapporto alla pari con i suoi giocatori. Sì, Maradona fa tutto quello che un allenatore comune non fa, del resto lui non è mai stato un uomo comune, quindi sarebbe sbagliato aspettarsi qualcosa di diverso da lui. E io tifo per lui, al netto dell'Italia naturalmente, come tu ben sai, l'Albiceleste e Diego Maradona sono vicini alle mie più profonde passioni sportive, mettiamola così, con un giro di parole orrendo. Se non è che Capello poi abbia, che invece non è vicinissimo alle mie più profonde passioni sportive, abbia incantato ieri sera, perché qualcuno ha detto: ma l'Inghilterra in fondo non mi è dispiaciuta. C'è quella roba orrenda di Green che ha condizionato chiaramente la partita dell'Inghilterra. Oggi ne abbiamo visto una, abbiamo visto la sorella, no? Con Cosci, portiere algerino, che su un tiro, del classico tiro che paravamo anche noi, di Coren, ha preso l'unico gol fin qui del pomeriggio, 0-0 tra Serbia e Ghana, 65-13. Sì, beh, qualche responsabilità probabilmente c'era anche il pallone, però ci sono anche dei movimenti tecnici anche da parte di Green che non sono quelli ideali. Adesso, come sai, l'autocitazione non è mai una cosa che ci piace, però Io mi ricordo che quando Capello prese la nazionale, parlando tra di noi, si diceva ha sicuramente la capacità di portare al massimo possibile questa nazionale, però a differenza di quanto lui ha fatto nei club, non c'è un mercato dove prendere giocatori per coprire e migliorare quei ruoli che sono difettosi. Il portiere e il centravanti sono due ruoli in cui Capello non può incidere più di tanto. Ha utilizzato Eschi ancora perché è il partner migliore per Rooney, cioè quello che è più funzionale per esaltare ulteriormente Rooney, che comunque è migliorato molto rispetto a due anni fa anche nel fare reparto quasi da solo, però purtroppo ci sono poi dei limiti e probabilmente le grandi nazionali, oltre a tutte queste considerazioni molto tecniche che stiamo facendo, hanno anche lavorato per essere un po' più fresche, più pronte quando le partite conteranno di più, e quindi si aspettava probabilmente anche Capello di essere anche fisicamente, atleticamente non al massimo, sì, come è giusto che la sua squadra non sia nella partita d'esordio. Anche perché gli Stati Uniti sono una formazione nazionale da anni ormai molto organizzata. Sì, certamente molto organizzata, molto pronta fisicamente, e poi chi vuole vincere il mondiale, insomma, può far fatica ragionevolmente nelle prime partite, perché la finale è tra un mese, quindi una preparazione così sofisticata come quella che si segue oggi, questo può avere certamente un peso. Paio di ascoltatori, Massimo, che dici? Sì, Mauro da Bergamo e Pietro da Roma, primi due, 800 24 00 24. Spero che loro mi diano soddisfazioni, perché questo Serbia-Ghana è inguardabile. 0-0 67-09. Mauro da Bergamo, buongiorno. Sì, buonasera Carlo. Io chiamavo per due motivi. Uno per un motivo scaramantico, perché esattamente 4 anni fa mi aveva chiamato. Esatto, prima che iniziasse il mondiale dell'Italia, con quelle due partite inguardabili, grande, ancora con Svizzera, mi sembra, Polonia, Ucraina, sì, e poi tutti sappiamo come è andata a finire, quindi speriamo che anche questa sì, volta... Spero però che non mi faccia passare altri 4 anni prima di richiamarmi. Io chiamo spesso, ma spesso e volentieri non riesco a prendere. Siete tanti, per fortuna, grazie, esatto, al cielo. Dica. Volevo sapere due cose. La prima, appunto, come vede l'Italia all'inizio di questo mondiale. E la seconda, siccome io sono tifoso fiorentino, cosa ne pensa di Montolivo al posto di Pirlo? Perché secondo me Montolivo, tutti lo paragono come dice Pirlo, ma è un altro giocatore. Sì, è un giocatore. Lei da Bergamo lo conoscerà bene, visto che Montolivo è cresciuto lì, no? All'Atalanta, che se lei è tifoso viola lo saprà benissimo. Montolivo come dice Pirlo non è Pirlo, è un giocatore con caratteristiche diverse, però può essere a pieno titolo una soluzione. Come vedo l'Italia, glielo dico domani sera verso le 10:30. No, ma al di là di questo... Allora, il mio pensiero è che in una competizione che è per rappresentative, per selezioni, stiamo vedendo la scarsa qualità del gioco in questo momento e può essere un tema di riflessione di questa giornata, l'Italia è un po' più squadra delle altre, questo sì, io credo. Massimo? Sì, questo sì, sperando che le scelte di Lippi siano definitive, cioè che lui sia arrivato finalmente dopo tutta una serie di esperimenti anche un po' forzati da varie necessità ad avere l'idea di quella che è la sua squadra ideale. Adesso noi non sappiamo come giocherà domani sera l'Italia, ci sono delle indicazioni che per alcuni aspetti un po' mi sorprendono, nel senso che conoscendo Lippi, conoscendo tutte le sue attenzioni anche per gli avversari, sono sicuro che lui sappia che il Paraguay è una squadra molto temibile, in contropiede, molto veloce, in difesa attaccabile. E quella che si sta per disegnare, senza i centrocampisti incontristi e addirittura con l'ipotesi di Maggi e Criscito come esterno in difesa, è una nazionale molto molto offensiva e anche un po' sbilanciata, e questo per domani sera potrebbe essere un po' rischioso, perché il Paraguay ha un allenatore argentino che è Martino, che è molto molto bravo e molto attento, ed è una squadra agonisticamente preparata, molto organizzata e, ripeto, anche molto veloce quando riparte, quindi bisogna stare attenti a non concedergli troppi spazi, sempre ricordandoci che noi siamo l'Italia, campione del mondo, e siamo favoriti, dobbiamo giocare la partita noi. Esatto. E loro Paraguay, esatto, alla fine. Sì. Pietro, da Roma. Grazie, buonasera. No, grazie a lei. Complimentissime per la trasmissione. Grazie. Dottore, posso esprimere la mia indignazione nei confronti di una persona che ha un nome così brutto, Blatter, che io, essendo romano, Blatter vuol dire bagarotto. Sono già 4 anni che ci esprime il disprezzo nei nostri confronti, ma è ben ripagato, però perché questa persona 4 anni fa non ha voluto presenziare la nostra festa, alla nostra vittoria. Sarà stata pure fortunata, ma comunque vittoria limpida. Ma certo, saranno anche problemi di Blatter, no? Alla fine la figura non chiara, non pulita, comunque una figura non bella la fa la FIFA, mica l'Italia. Dottore, mi consenta però, la nostra federazione dovrebbe esprimere veramente una veemenza fortissima nei confronti di questo modo di procedere, perché noi siamo l'Italia, cioè un paese importantissimo. Se fossimo importanti non cambia nulla. Pietro, però mi pare che ieri abbia risposto subito a Bete, no? A questa cosa ha risposto a Bete, sollecitato da Gattuso, peraltro straordinario ieri in conferenza stampa. Gli hanno chiesto a Gattuso: ma cosa ne pensi di Vieira che alza quella coppa? Ma no, qua deve rispondere a Bete. Io dico subito che mi sono piaciuti tantissimo, al di là delle sciocchezze, poi parliamo anche di questo, le sciocchezze di De Rossi iniziali, mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento a parole degli azzurri nella marcia di avvicinamento a questo mondiale. Decisamente i migliori in campo nello stadio molto cacciaroso delle parole intorno a questa nazionale. Quanta Blatter, insomma, è la FIFA che ha fatto una figura, ripeto, barbina, ma mi sembra anche non mi sembra nemmeno il caso di insistere più di tanto, mi sembra anche questo un po' una battaglia di retroguardia. Massimo? Sì, allora sui giocatori concordo e ritengo che anche in questo caso la figura di Lippi sia molto importante, nel senso che è un allenatore che chi segue poi la partita della nazionale e seguiva la partita della Juve sa che quando finiscono le partite, prima di andare in conferenza stampa va giù negli spogliatoi, probabilmente qualche concetto che deve essere poi espresso da tutti lo esprime già lui, lo indirizza lui ai giocatori, quindi vedo qualcosa di simile anche in questa gestione dialettica di avvicinamento al mondiale. Dall'altro punto di vista è tutto vero, però è anche vero che se Blatter permette a Vieira di alzare la Coppa del Mondo che non è sua, si permette 4 anni fa di non presentarsi alla presentazione, se Platini presenta Sarkozy solo e quindi presidente francese ai giurati delle candidature europee e non i rappresentanti italiani e turchi, tutto passa in secondo piano e tutto passa in cavalleria, dovremmo farci rispettare un po' di più. Certamente, il nostro peso politico è molto scarso. D'altra parte, secondo me, Massimo, permettimi di dire, anche come il carisma di chi guida il calcio in Italia. Certo. Sì, certamente. Perché bisogna farsi rispettare, ma bisogna avere anche un po' di palle, un po' di più. Carisma, insomma, chiamalo cazzimma, chiamalo come vuoi, insomma. Però bisogna avere una faccia, una presentabilità, credo, un po' diversa, no? Sì, magari anche una dialettica un po' diversa. Non voglio Mourinho, però uno che possa esprimere qualche concetto un po' più forte quando è il momento. Tanto anche la Serbia rimane in 10, pochissimi gol, però diversi cartellini in questo mondiale. Djukovic espulso, doppia ammonizione, 74esimo di questo Serbia-Ghana, chissà che questo non spezzi gli equilibri. Massimo, grazie, ci sentiamo in settimana, martedì sei qui, Martedì sera. Sì, martedì sera vi lascio molto volentieri. Massimo Callegari, sarete contenti. Adesso invece vi faccio sentire una breve pausa, subito dopo torniamo, 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto qui. 1 più 1? 5. 2 più 2? 5. 5 più 5? Lo so, 5. Suo figlio è intelligente, ma non si applica. I grandi sogni si fanno fin da piccoli. Oggi la Volvo XC60 che hai sempre sognato è arrivata. Nuova Volvo XC60, finalmente 2000 diesel, con la potenza di 5 cilindri. Da 36.700 euro negli showroom Volvo. Non mi sposi più. Ma Pucci, ho tradito la tua fiducia. Mai. Pucci, tu sei il solo. Il solo a non saperlo. Per un'azienda avere corrette informazioni sui propri partner è essenziale. Credit Reform Italia, con il servizio rapporto classificato, ti assicura l'informazione commerciale su tutte le aziende italiane con un clic. Credit Reform è leader in Europa per le informazioni commerciali online. Meglio saperlo prima. www.creditreform.it. Numero verde 800 425 325. Hai chiuso il gas? Hai staccato le prese? Televisore? Videoregistratore? Stereo? Ho fatto tutto, ma tu non hai fatto l'Energy Check. Santo cielo! Approfitta del Fiamme Energy Check. Fai controllare gratis la tua batteria dai nostri specialisti e riceverai in omaggio la tessera di assistenza stradale. Iniziativa valida dal 1 giugno al 31 luglio 2010. Fiamme.com. Mario, oggi in versione Cristoforo Colombo. Giro una fiction sulla mia impresa. Per le imprese l'uovo di Colombo è Poste Mobile. Se hai una partita IVA, parli senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo. Poste Mobile è l'offerta prepagata che aspettavi. Vedrai che convenienza per il tuo business. Bella scoperta! Altro che l'America! Chiama subito il numero gratuito dedicato alle aziende 800 160 000 o vai su postemobile.it. Poste Italiane. Last minute Opel. Si avvisano i passeggeri che solo a giugno Zafira partirà da 16.200 euro. Last minute Opel. Solo a giugno. Le offerte da prendere al volo. Zafira con clima ed SP da 16.200 euro. Vola dai concessionari Opel. Soluzioni magazzino? Chiedi di più. Chiedi a Modul Block. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. Anticiclone africano proteggerà oggi le regioni di nord-est e gran parte del centro-sud, dove quindi avremo una giornata nel complesso ben soleggiata, anche se piuttosto calda, soprattutto nelle regioni meridionali, dove toccheremo ancora punte di 33-34 gradi. Temperature un po' più contenute invece al nord-ovest, dove insisteranno un po' di nuvole, con anche la possibilità nel pomeriggio di qualche isolato rovescio temporale, principalmente però sui settori alpini. Poi nella giornata di martedì il tempo peggiorerà al centro-nord, con anche temperature in calo. Per maggiori dettagli consultare il sito meteo.it e per il meteo è tutto. Fiat Professional presenta So Diego, ti spiego. Nuovo Fiat Doblò Cargo è il furgone dei record e fino al 30 giugno è tuo da 8.500 euro con leasing anticipo zero. Tasso leasing 4,39 salvo approvazione Sava. Non sei stata chiara. Sono Diego, ti spiego. Che so, devi trasportare dei tonni. Prendi un bel Doblò Cargo a 8.500 euro. Ci fai accomodare una bella tonnellata di tonni. Il tonno si trova bene e magari ritorna. Una battuta, no? Per caricare l'ambiente. Carina! Festeggia i mondiali di calcio 2010. Estate al sole, esperienze mondiali, calcio, cultura e tradizioni dal mondo. A Milano tutti i giorni spettacoli, concerti, mostre, degustazioni e tutte le partite dei mondiali in Sudafrica su maxi schermo. Dall'11 giugno all'11 luglio, dalle 13 alle 23, in via Monterosa 91, nella prestigiosa sede del gruppo 24 ore. Estatealsole.it. Ti aspettiamo. Un'iniziativa Sasa, eventi e comunicazione in collaborazione con gruppo 24 ore. Esistono suoni che evocano immagini dalle forti emozioni. È un Infinity, sportività allo stato puro. È il sound del nuovo motore V6 Infinity ad alte prestazioni. Non sembra, eppure è un diesel. Nuovo Infinity FX e EX Diesel. Il perfetto abbinamento tra un'auto sportiva e un diesel. Prenota un test drive su infinity.it. Infinity. Inspired Performance. E questo è l'ufficio export. Però quanto personale, che investimento. Eh no, ai nostri due interni ho aggiunto un export specialist in outsourcing. Ah, servirebbe anche la mia azienda, ma è venduto all'estero. Incarica un export specialist Comark. Nuovi mercati e incremento di fatturato a costi contenuti. Vedrai che metodi e strumenti di vendita innovativi. Oggi per vendere servono nuove soluzioni. Vendere all'estero? Chiama Comark. Comark ha un export specialist anche per la tua azienda. Chiama 800-123-640 o vai su www.aziendedisuccesso.it. State ascoltando un programma offerto da Niente Caselli, solo Castelli. Manda in ferie la tua auto. Noleggiane una su europcar.it. A tempo di sport. Serbia-Ghana 0-0, per miracolo, per la verità siamo al 79esimo, anzi all'80esimo di questa seconda partita di giornata, per miracolo, perché Kingson, portiere del Ghana, ha appena fatto una parata piuttosto difficile su Krasic, possibile futuro juventino, su un cross basso dalla sinistra, un pallone sbucciato da un attaccante serbo, arriva Krasic di corsa, tiro piuttosto facile, non calciato benissimo, piuttosto centrale, molto spettacolare. se si può parlare di spettacolo in questa partita, ripeto, la parata di Kingson, che poco prima mi aveva fatto pensare di aver sbagliato. Invece il mondiale di calcio giochi senza frontiere, perché su un rinvio gli è scivolata la palla dalle mani, situazione piuttosto comica risolta con un calcio a questa palla magica da parte di Kingson. Vorrei proprio parlare anche con voi, se volete, 800 24 00 24, numero verde, perché il tema è molto caldo, di mondiale TV, di mondiali alla TV o di mondiali senza TV in qualche caso in Italia. Tra le mie letture preferite, non voglio fare la pubblicità gratis, però in questi giorni imperdibile, Antonio Di Pollina su Repubblica. Ciao Antonio, grazie. Possiamo mettere d'accordo, mettiamoci d'accordo. Un piccolo, d'altra piccolo parte, io posso permettermelo. No, ma sai, se lo leggo devo dire, devo dire la verità, no, per dirla con Gattuso, devo dire quello che penso, mi pagano per quello alla fine. Calcio e Vuvuzela, se il cornetto acustico di Olsen, quando non si parlerà più tanto di Vuvuzela, che sono le sorelle simpatiche, credo, delle trombette giapponesi delle finali di Intercontinentale, sì. Allora vuol dire che è successo qualcosa sui campi. Sì, credo che il problema stia diventando quello. Io adesso spero che la Serbia stia segnando, no, neanche questo, perché davvero sta diventando, vabbè, al di là di tutto il contorno del calcio parlato intorno alle partite, se le partite continuano a essere così è un disastro. Io sto davvero rimpiangendo che non riesco a vedere da nessuna parte Catanzaro Cisco Roma, dove stanno segnando a raffica. Ci tengo molto a Spezia Legnano, che però stanno ancora sullo 0-0, cioè Serbia Ghana e l'Algeria Slovenia di oggi più quelle precedenti, non lo so che dobbiamo dire. Mi viene da provare un briciolo di solidarietà per chi deve parlarci sopra, per chi deve parlarne, per chi deve discuterne, perché sta davvero succedendo poco e il livello di alcune partite davvero non vale quelle che ho citato prima. Senti, anche io ho qualche ascoltatore che scrive: Inghilterra Stati Uniti una discreta partita, occhio agli Stati Uniti, Sudafrica Messico non male, Corea da rivedere, però stiamo parlando veramente di cose per adepti. Invece non sono tra i miei spettacoli preferiti i contorni che ci sono a queste partite di calcio, né sulla Rai né su Sky, ti dico la verità. Come sono? Tu che li guardi per lavoro? No, stanno risentendo moltissimo della pochezza di quello che sta succedendo, del fatto che, a parte, cioè, che bisogna davvero rispolverare, riesumare Maradona personaggio per provare brividi di discussione e schierarsi e mettersi uno contro l'altro e fare un po' di colore, fare un po' di racconto. Quindi fino a che, per capirci, fino a che non scende in campo l'Italia e non succede qualcosa lì, mi pare che stiano tutti un po' brancolando nel famoso buio. Attenzione, adesso, Antonio, al Cibali del Ghana. Al Cibali di Pretoria, rigore per il Ghana, fallo di mano di Kuzmanovic, 84esimo, ve lo faccio sentire attraverso la TV. Due edizioni dei mondiali e può soprattutto mettere il Ghana davanti e in testa al gruppo D. Come detto, i gol pesano tanto in questo mondiale. La concentrazione di Vladimir Stojkovic. Aspetta il fischio dell'arbitro Baldassi. Parte Gyan e il Ghana passa in vantaggio all'83esimo minuto. Asamoah Gyan 1-0. Miracolo, un gol, secondo di giornata, su rigore di Gyan e fallo da pollastro di Kuzmanovic su un cross dalla sinistra che non mi sembrava una cosa pericolosa. Sì, tiriamo fuori le vuvuzelas. È il Ghana-Ghana, dicono in Spagna, in questo momento, ma anche qui, vabbè, adesso c'è un po' di colore, di balletti e di cose. No, tornando al discorso, tutto molto basso finora. Se hai la fortuna, come mi hai spiegato, di non vedere per esempio fino a l'una di notte quello che succede sulla Rai quando a Piazza di Siena si scatenano Giampiero Galeazzi e Maurizio Costanzo seduti insieme. Ieri Galeazzi ha impugnato una vuvuzela vera e ha cominciato a suonarla, e battute a tutto spiano su tutto lo scibile possibile, purché non sia il calcio, perché appunto c'è poco da dire. Io sto vivendo queste giornate e siamo solo al secondo giorno. Se a quell'ora vado in pizzeria, se qualcuno vuole venire con me lo invito. Questo fa sì che io ti invidio molto, ma niente, tocca stare qui e tirare fuori e vedere e capire se qualcosina qua sì. e là succede, però sì. Se alla fine la cosa più clamorosa che succede è la papera di Green, cioè un evento negativo, non spettacolare, che ti malinconisce anche pensando al povero Green per il resto dei suoi giorni, poi ci scherzi un po' sopra, ma poi finisce tutto. Sì, certo. Il mondiale deve ancora decollare da ogni punto di vista. Senti, Antonio, io volevo fare, ci tenevo molto a fare con te invece un discorso che è un po' più serio, mi diverte moltissimo parlare di queste cose. Allora, io ricevo messaggi, sms accorati di gente che magari si è svegliata ora dopo la Germania e dice alla Rai non mi fanno vedere le partite, una partita al giorno, e dove la guardo e come faccio, eccetera eccetera. Io continuo a pensarla in un certo modo, cioè che il calcio nel 2010 non sia un diritto da veder servito come gli spaghetti di Fantozzi ogni momento sulla poltrona di casa, sia una cosa un po' diversa. Sì, no, soprattutto non lo è il calcio pletorico, quello che per esempio nella storia dei mondiali è sempre stato per il pubblico televisivo, almeno da quando c'è la televisione in tutte le case, fermarsi per un mese e guardarsi tutte le partite gratis. Quello evidentemente non è più l'epoca cose di questo genere, dobbiamo davvero scordarcele, anche se all'estero in qualche nazione l'offerta è superiore, in qualcun'altra è anche un po' inferiore, parlo dell'offerta in chiaro. Qui si è arrivati a un compromesso attraverso il quale la Rai, non dimentichiamolo, che deteneva i diritti di tutto quanto, ma li ha ceduti a Sky in cambio di molti molti soldi, con cui io credo siano addirittura stati pagati degli stipendi, perché cioè si sia riusciti a pagare degli stipendi, perché la situazione della Rai sappiamo quello che è, e insomma bambole non c'è una lira, come si diceva una volta, dal punto di vista del servizio pubblico, e cara grazia che diciamo l'essenziale, ovvero la nazionale e le due semifinali e poi la fase di nazione diretta, insomma io comunque ti ripeto, come concetto non trovo per nulla scandaloso il fatto che il calcio in generale sia a pagamento, ma basterebbe poi alla fine un po' di fantasia e un po' di pigrizia in meno, no? Le possibilità di vivere il calcio come in altri paesi, come un momento di aggregazione, c'è un sacco di spazi soprattutto in occasione dei mondiali, e molto spesso sono anche gratuiti, basterebbe alzare il sedere dalla poltrona e ingegnarsi un po' invece che lamentarsi. Sì, in genere sì. Il fatto è che c'è un'abitudine pluriennale, pluridecennale, anzi, come abbiamo detto, e non dimentichiamo che stiamo parlando dei mondiali di calcio, ma fra due anni dobbiamo cominciare a prepararci alle Olimpiadi, quelle estive, che verranno date per intero solo a pagamento, però anche lì scopriremo che probabilmente è una cosa un po' più soft, perché fondamentalmente la Rai riuscirà più o meno a dare quello che ha dato sempre, ma chi vorrà vedere molto di più lo pagherà attraverso la Pay. Un'ultima cosa, Antonio, poi ti lascio alla finale di questa memorabile partita. A Brunetta cosa dici? A Brunetta dico che che è andata un po' di sfiga dal punto di vista degli orari, perché effettivamente ci sono due partite della nazionale al pomeriggio, e se fossero state alla sera come succede per altre non si sarebbe posto il problema. Ecco, da questo punto di vista lì probabilmente l'indole italica va tra l'altro più incontro è una la partita che... è una partita, perché è la seconda di domenica, se non ricordo male. Potresti avere ragione tu, e è una sola, è quella del 24. Ecco, benissimo. Allora, ma anche in quel caso, se anche fossero di più, allora lì sì che l'indole italica che tu citavi prima si sveglia e trova delle soluzioni che bypassano improvvisamente sia Brunetta che Sacconi che tutti quanti. Grazie Antonio. Grazie a voi. Buona visione. Ciao. Grazie davvero ad Antonio Di Pollina. Buona visione naturalmente. 80024 0024 traffico, poi torniamo qui e andiamo in Sudafrica. Pubblicità. Il conto di che banca? Il conto di che banca? Un euro al mese e non hai mai sorprese. Con un euro al mese si può gioire. Oh, evviva, evviva. E in tutto il mondo puoi prelevare. Il conto corrente di che banca ha un canone di un euro al mese, senza sorprese. Per i fogli informativi 848-444-488 o chebanca.it. Che banca? Gruppo Mediobanca. Strade in diretta. Sull'autosole 2 km di coda per un incidente fra il bivio per la 24 e la diramazione Roma Nord verso Firenze. C'è un incidente anche sul tratto campano della 1, code tra Caianello e Capua verso Napoli. Restiamo ancora sull'autosole, ci spostiamo in Emilia, forti grandinate e temporali nella zona di Bologna, traffico rallentato e a tratti fermo tra Bologna e Modena, attenzione anche nella zona nord di Torino dove sono in corso temporali. Traffico intenso su molti tratti, sulla 10 Genova Ventimiglia code tra Borghetto e Savona verso Genova, sulla stessa carreggiata code a tratti tra Celle Ligure e la 26 dei Trafori, trafficata anche la 12 Genova Livorno con code a tratti tra Chiaveri e il bivio per la 7 in direzione del capoluogo Ligure, sempre sulla 12 ma sulla Roma, Civitavecchia, incolonnamenti tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma. Traffico sempre intenso sulla 14 Adriatica con code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione dell'Autosole. Sulla 11 Firenze Mare, traffico molto intenso tra la 12 e Capannori verso Firenze, mentre sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno code a tratti tra Vicarello e la diramazione per Pisa in direzione del capoluogo toscano. Trafficata anche la diramazione Gallarate-Gatti tra Castelletto Ticino e la barriera di Gallarate in direzione della 8 Milano-Varese, infine sulla 13 Bologna-Padova code per lavori tra gli svincoli di Ferrara in direzione Padova. Ed è tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. Promo 24. Business o tempo libero? Chi deve scegliere un'auto che sappia soddisfare le esigenze di chi viaggia per lavoro, ma cerca anche il piacere di guida, si trova spesso davanti a un bivio. Ma oggi tutta la gamma Passat i-Line Blue Motion Technology è full optional di serie. Eleganti e affidabili, sono ancora più ricche grazie a un'eccezionale dotazione di serie. Navigatore satellitare touchscreen, cerchi in lega da 17, interni in pelle e alcantara, regolatore di velocità, sensore pioggia. In più, il sistema start e stop e recupero dell'energia in frenata consentono una sensibile riduzione di consumo ed emissioni. Passat con Blue Motion Technologies possono essere vostre a 194 euro al mese e con Blue for You per voi fino a 3.000 euro di vantaggi. Informazioni su Volkswagen.it. A tempo di sport. Palo pieno di Gian, i gol potevano essere addirittura due in questo Serbia-Ghana, ma mancano 35 secondi alla conclusione dei 3 minuti di recupero concessi e il Ghana conduce 1-0. Io voglio pubblicamente ringraziare Marco Ansaldi, inviato della stampa, che ci concede 2 minuti di pubblica udienza dal Sudafrica in un giorno così complicato come quello che precede, come quello della vigilia di un debutto mondiale azzurro. Ciao Marco. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Com'è la vigilia? Piovosa innanzitutto, molto umida, fa un discreto freddo, c'è un po' di vento e soprattutto piove, pare che sarà così anche domani, insomma. Senti, io voglio condividere con te un'impressione. Io vorrei applaudire pubblicamente gli azzurri per la grande classe e dignità che hanno avuto da lì nella risposta a parole alla cacciara che si sta agitando nel paese su vari fronti. Sì, direi che è stata la cosa migliore che hanno fatto fino adesso. Comunque la cosa che ha veramente, secondo me, unito l'Italia attorno a questa nazionale. Cioè il miracolo questa volta non l'ha fatto Lippi con le sue crociate anti-giornalisti, come era successo in Germania, ci hanno provveduto i politici a compattare la nazionale e forse anche il paese attorno a questa nazionale, indipendentemente da come ciascuno di noi la può pensare politicamente. Ma questa intromissione, questo tentativo di molti politici, ma anche poi tanti, no? 4 o 5 politici molto importanti, di mettersi in vetrina parlando di nazionale anche a sproposito, credo che siano riusciti a far passare tutto il paese dalla parte delle azzurre. Condivido parola per parola. Marco, prima di salutarti, Lippi vi ha fatto scrivere molte formazioni, non sono dubbi epocali quanto agli interpreti, no? Perché questa volta a sto giro non ci sono Rivera, Baggio, Totti, Del Piero, Mancini, chi volete voi, non ci sono questi. I dubbi veri e sottili ma importanti riguardano quelli dell'ossatura di questa nazionale, c'è o non c'è? E se c'è, qual è? E questo è il problema, guarda, sinceramente noi, sai, non è che riusciamo a parlare molto con i giocatori perché sono blindatissimi, però quel poco che riusciamo, che magari sono giocatori che si conoscono bene, insomma. Ti dico che fino a ieri ho avuto la sensazione, oggi ancora non siamo riusciti a sentire, ma ho avuto la sensazione che nemmeno loro avessero la percezione esatta di quello che stava succedendo. Non so se sia un bene o un male, secondo me è un male perché io immagino che bisogna avere le idee, anche i giocatori stessi devono avere l'idea non tanto se giocano o meno e chi giocano, ma il tipo di modulo con cui andranno in campo. E invece mi sembra che siamo ancora un po' a una situazione in cui non si capisce bene se ci sarà il famoso trequartista, se non ci sarà, se Chiellini gioca in centrale come io immagino, oppure se giocherà terzino come aveva adombrato Lippi prima. E credo che nemmeno dall'allenamento di oggi si capirà qualcosa, perché avendolo Lippi tenuto aperto a tutti, evidentemente farà un gran bel mischione per non farci capire come giocheranno. Questo cosa significa secondo me? Significa che Lippi, che è uno che quando le cose vanno bene, quando ha fiducia in un certo sistema di gioco, ti fa capire già 3-4 giorni prima chi giocherà e come si giocherà, in questo caso sta giocando veramente un'arma a sorpresa, probabilmente perché non si sente sicuro della qualità di questa squadra e deve inventarsi qualcosa. Io spero solo che non rifaccia la formazione che abbiamo visto a Bruxelles, non tanto negli uomini ma anche proprio negli schemi, perché lui non ha oggi un trequartista vero, e quindi se vuole insistere con quello schema lì rischiamo veramente di andare incontro a delle difficoltà. Io penso che lui debba, e immagino che poi alla fine sarà così, giocare con l'Italia più semplice possibile, con i giocatori nei ruoli che conoscono bene nei propri club, senza inventarsi delle cose strane. Credo che sia l'unico modo per poter tirare fuori da quest'Italia qualcosa. E detto tra di noi, io penso, sono partito con un grandissimo scetticismo nei confronti di questa squadra, penso alla fine, anche avendo visto qualcuno di queste grandi squadre che sono qui, che alla fine qualcosa combineremo. Non penso che sia una squadra che può vincere il mondiale, ma forse non siamo poi così disastrati come ci aspettavamo. Comincio proprio a pensarlo anch'io. Marco, ti ringrazio davvero, buon lavoro. Ciao, buon lavoro anche a voi. Un abbraccio, Marco Ansaldi, inviato della Stampa. Chiudo questa ora. Ah, è finita Serbia-Ghana, naturalmente 1-0. Non vi ho dato il tempo reale, ma non vi ho nemmeno comunicato variazioni di risultato. Quindi così è andata, 1-0, rigore di Gian, 79esimo, fallo di mano da pollo di Kuzmanovic a decidere questa partita, e palo finale di Gian, questo ve l'ho raccontato, in pieno tempo di recupero. Dunque si è aperto così il gruppo D, che questa sera si completa con Germania, Australia. Mario, provincia di Milano, Paolo da Latina. Mario. Carlo, buonasera, è sempre un piacere. Volevo fare delle brevissime considerazioni per questo inizio dei mondiali. Prima di tutto un suggerimento al ragionamento di Marco Ansaldo prima. Un trequartista ce l'abbiamo, Kossu. Provarlo. Tornato perché, a casa. Porca miseria, no, non sono preparato, non ero preparato in questo, perché pensavo che Kossu era proprio quello che no, poteva perché servirci. Era il jolly, no? Da inserire. Sappiamo che i tempi sono entro 24 ore dalla prima partita, non sono ancora scadute, ma Kossu è tornato. Niente, considerazioni velocissime. Corea del Sud, secondo me, la miglior squadra in proporzione, perché è quella che ha fatto vedere il miglior calcio. Sì. Forse perché ha giocato contro dei pali della luce, allora si è vista forse la differenza. Pali della luce mi sembra definizione corretta per la Grecia. Ecco, Argentina, secondo me, la miglior squadra potenzialmente. Vero. Non so cosa potrebbe veramente... come può giocare l'Argentina con Zanetti e Cambiasso al posto di Veron e Jonas Gutierrez. Questa è una cosa che chiederemo solamente al Pibe d'Oro. Sì. L'Inghilterra, più che il portiere, non è possibile che secondo me l'Inghilterra non abbia un attaccante serio da affiancare a Rooney, perché una papera del portiere può succedere. Quella è stata grossa, ma sono tante. Dai tempi di Seaman che l'Inghilterra non ha un portiere degno di questo nome. Quanto all'attaccante da mettere vicino a Rooney, io tanto per cominciare vorrei averne uno come Rooney. Poi è vero che Eschi, Crouch, eccetera, sono figure di secondo piano. Eschi, quando andremo mondiali con Eschi, Non lo so, però hai già la fortuna di avere uno come Rooney, con Gerard e Lampard che si inseriscono da dietro. E questo è il potenziale offensivo dell'Inghilterra, più che il pivottone che si mette lì, si chiama Eschi o Crouch, è un giocatore che sposta poco. Però intanto vorrei cominciare ad averne uno come Rooney, e ce l'ha l'Inghilterra, non ce l'hanno molti altri, ecco. Quanto all'Argentina, sul resto sono d'accordo, insomma l'Argentina potenzialmente è la squadra più forte. Poi ieri, ripeto, considerato quanto ho visto fin qui, a me non è poi così tanto dispiaciuta l'Argentina di ieri. Insomma, è partita molto forte, ha trovato il gol subito. Giocava contro la Nigeria, che non è l'ultima squadra di questo mondiale certamente, e poi si è un po' adagiata sulla bravura di Messi, che non è riuscito a costruire il raddoppio, tutto lì. Ma l'Argentina mi è piaciuta più dell'Inghilterra, se devo essere sincero. Adesso GR, poi Paolo da Latina, spero mi faccia compagnia oltre il GR, parleremo con lui subito dopo. tempo di sport. Prime battute del Gran Premio del Canada davanti a tutti, Hamilton che è partito bene, dietro di lui Vettel e poi Alonso, mentre l'altra Ferrari, quella di Massa, contatto con una Force India, si è fermato per riparazioni e è ripartito. Ma siamo davvero ai primi giri, poi ne parliamo. Paolo da Latina mi ha seguito oltre il GR, grazie Paolo. Sì, buonasera. Buonasera, volevo intanto salutare tutti gli ascoltatori. Volevo parlare della partita Inghilterra-USA di ieri sera. Tutti criticano praticamente l'Inghilterra per questa, diciamo, brutta figura, ma non è il caso di guardare un po' più lontano e pensare a una sorta di maturità invece del calcio statunitense e che ci sta insegnando che basta stare bene in campo e avere una condizione fisica, direi, decente per poter andare avanti in un campionato mondiale. No Paolo, lo stavamo dicendo prima, no? Che gli Stati Uniti alla fine sono diventati una cosa, se non serissima, una cosa accettabile, perché sono molto preparati fisicamente, perché stanno in campo, perché hanno giocatori che sono riusciti in qualche modo a fare esperienza anche in campionati europei. Mi viene in mente Donovan, che è la stella di questa squadra. Insomma, non sono più terzo mondo calcistico, questo è certo, però dall'Inghilterra resta il fatto, ti aspetti qualcosa in più. Terzo giorno di mondiale, vigilia della partita dell'Italia, mi affido ad una delle mie firme di riferimento come Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore. Ciao a te, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. Non bellissimo questo mondiale, anzi bruttino o bruttissimo, non lo so, scegli tu quello che più ti piace. Qualità scarsa, sorpresa per questa qualità così scarsa fin qui. Io cerco di non avere aspettative troppo elevate e quindi di non subire i contraccolpi eccessivi di delusioni. Quando si parla di livellamento, parlavate giustamente dei progressi degli Stati Uniti, bisogna ammettere che a calcio cominciano a giocare bene un po' tutti, soprattutto sotto l'aspetto tattico e dello schieramento in campo, primo, e secondariamente sotto quello della condizione atletica generale. Terza osservazione, giocare bene a pallone, anche se ti chiami Messi, quando hai sulle spalle 60 partite nell'anno, è molto difficile. Io penso che sia addirittura impossibile. È una tendenza che vediamo già da diversi mondiali, per esempio da quello con la Corea. Comunque, a calcio si gioca ed è sempre divertente. Direttore, diciamolo sottovoce, ma dopo aver visto la Francia, dopo aver visto l'Argentina ieri, l'Inghilterra, qualche speranziella in più per la nostra, che è una squadra molto più di altre, che sono delle rappresentative anche un po' spompate, come stai giustamente dicendo, un po' di speranza ci viene? Sì, perché sono spompati tutti come lo siamo noi. Poi naturalmente se facciamo il confronto dell'organico della Spagna o del Brasile, non abbiamo molto da essere ottimisti, ma neanche troppo pessimisti. Tutto sommato, il mondiale è una grande lotteria in cui contano la fortuna e la bravura quasi nelle stesse proporzioni. E tutto si accende se c'è una condizione fisico-atletica accettabile, cosa che scopriremo magari nemmeno domani alla prima partita, ma alla seconda o alla terza. Direttore, volevo condividere con te un'altra riflessione, che è un applauso che ho fatto già prima ai giocatori, al clan Italia, per come si sono mossi in questo frastuono molto fastidioso che ci accompagna verso la partita, che non è quello delle vuvuzelas, ma è quello delle storie dei premi, è quello di Brunetta, è quello di chi si lamenta perché non c'è tutto il mondiale gratis in TV, eccetera eccetera. Un frastuono ci accompagna al di là delle sciocchezze di De Rossi iniziali. Devo dire che i nostri hanno risposto a parole da migliore in campo, con grande classe. Per ora sì, mi piace sottolineare questa mossa degna di un grande ufficio marketing di devolvere eventuali premi di vittoria alle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, che è tutto un programma che ha un senso di serietà e di ironia insieme. Sì, anch'io penso che questa sia una delle cose buone di questo avvio dei mondiali, ma ce ne sono altre. Per esempio vedo ottimi arbitraggi, per esempio vedo campi e stadi di straordinaria bellezza, per esempio vedo delle regie televisive, anche se ahimè che non si possono gustare in modo universale, ma davvero all'altezza della situazione. Insomma, il clima di festa sulle tribune e di colore è per ora una meraviglia, insomma, è una grande festa e continua ad esserlo ai miei occhi. Non hai trovato eccessive le critiche all'Argentina? Ma l'Argentina ha fatto una partita ambigua e contraddittoria. È vero constatare che è la squadra fra quelle che sono scese in campo fino ad ora che ha creato di più, ma è anche vero che ha lasciato alla Nigeria, che non mi è sembrata una grande squadra, tre occasioni gol e con possibilità di pareggio. È anche vero che la freddezza di Higuain sottoporta e la mira di Messi sono rivedibili, quindi è una performance in cui ci sta tutto. Il fatto rassicurante di aver prodotto, sia pure al piccolo trotto, però mi sembra che giochi da fermo e l'Argentina in fase di possesso palla tutta mi sembra che giochi da fermo, ma in queste condizioni ha prodotto 5 o 6 palle gol, e però i dati anche negativi, quindi non mi meraviglio che una partita del genere venga interpretata nei modi più vari. Sì, tanto ti ringrazio direttore, oggi giornata positiva per l'Inter perché ha sbolognato Quaresma sul fronte interno, questo vale naturalmente, ha sbolognato Quaresma in Turchia ed è arrivato Benitez, battono le agenzie ora Benitez a Milano, inizia l'era post Mourinho. Beh, auguroni a Benitez, la sua classe, la sua ottima conoscenza dell'italiano, l'Italia pensate un po' è un paese che adora, laddove Mourinho ci ha ripetuto in tutte le salse che gli piace poco, soprattutto nella sua espressione calcistica. Certo, aver ceduto Quaresma è stato straordinario. Devo dire che è stato uno dei pochi errori del mercato degli ultimi 2 o 3 o 4 anni dell'Inter, no? Che si è trasformata da una squadra che cedeva i più forti e acquistava bidoni, si è trasformata nella squadra che ha inventato alcuni fra i giocatori più forti del mondo, mi riferisco per esempio a Maicon, a Sneijder, a Cambiasso, certo. Insomma, un mercato completamente trasformato che poi ha prodotto i successi che abbiamo visto. Grazie direttore. Grazie a voi tutti. Alla prossima con Franco Arturi. L'aggettivo straordinario per la cessione di Quaresma al Besiktas oltre 7 milioni di euro mi sembra dica tutto, no? Allora, risultati sempre sul fronte interno: Varese batte Cremonese 2-0 e va in Serie B. Verona che invece perde 1-0 con il Pescara, e per il Verona rimane il lungo purgatorio perché il Pescara va in B, il Verona rimane al piano di sotto. Ci fermiamo per il traffico. Strade in diretta. Sull'Autosole 2 chilometri di coda tra la 24 e la diramazione Roma Nord verso Firenze per un tamponamento tra più mezzi in corsia di sorpasso. Più a nord altri 3 chilometri di coda tra la complanare di Piacenza e Piacenza Nord in direzione Milano per un incidente. Sul tratto penninico della 1 code di 4 chilometri tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione Firenze per un veicolo in panne. Attenzione sulla 13 Bologna-Padova, sono in atto forti temporali, ci sono code tra il Tedo e Villa Marzano in direzione Padova. Per traffico intenso code sulla 10 Genova-Ventimiglia verso Genova tra Borghetto Santo Spirito e Savona e tra Albisole e la 26 dei Trafori. Trafficata anche la 12 Genova-Livorno con code a tratti tra Chiavari e il bivio per la 7 in direzione del capoluogo Ligure. Sempre sulla 12 altre code tra Colle Salvetti e Rosignano verso sud e incolonamenti tra Santa Severa e Torre in Pietra in direzione della capitale. Traffico intenso sulla 14 Adriatica con code a tratti tra Forlì Castello e San Pietro in direzione dell'Autosole, mentre in direzione di Ancona si rallenta tra Loreto e Ancona Sud per un incidente tra 3 veicoli tra le corsie di Varcia e Sorpasso. In Toscana code sulla 11 Firenze Mare per traffico intenso tra la 12 e Capannori verso Firenze, sulla Firenze Pisa Livorno tra Vicarello e la diramazione per Pisa sempre in direzione di Firenze, e code anche sulla diramazione Lucca Viareggio verso la 11 a partire da Massarosa. Trafficata la diramazione Gallarate Gattico, si incontrano code tra Castelletto Ticino e la barriera di Gallarate Ovest in direzione della 8 Milano Varese, code che proseguono poi sulla 8 in direzione Milano sino a Castellanza. Per lavori rallentamenti e code sulla 4 Brescia Padova tra Desenzano e Brescia Est in direzione Brescia. Per ora è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Promo 24. Abbiamo imparato a trasformare l'energia solare in elettricità e i pannelli fotovoltaici sono ormai ovunque nel nostro paesaggio quotidiano. Nei campi, sui tetti di abitazioni, industrie, parcheggi e serre. Ma bisogna essere certi che l'energia immessa in rete sia di qualità, disponibile e sicura e che venga utilizzata in modo efficiente per garantire il corretto ritorno dell'investimento. Schneider Electric è lo specialista globale nella gestione dell'energia e aiuta privati e aziende a progettare, realizzare e gestire al meglio gli impianti fotovoltaici, dal residenziale fino ai campi solari lungo tutto il loro ciclo di vita. Tutte le informazioni su www.schneider-electric.it. Tempo di sport. Visto che stavamo parlando di Argentina e di Argentina-Nigeria segnatamente, e prima di ricominciare a parlare con gli ascoltatori, con grande piacere, avete visto che mi hanno dato delle soddisfazioni i miei amici ascoltatori, me le stanno dando, 800 24 00 24, numero verde, me li aspetto anche domani sera, domani sera dalle 21 alle 23:30, se non ricordo male, dovrebbe essere così. Saremo insieme per la partita, il debutto dell'Italia, quindi non lasciatemi qui da solo, per carità. Adesso voglio farvi sentire invece questa intervista raccolta da Dario Ricci, nostro inviato in Sudafrica. Veron. Una vittoria, una buona vittoria, e l'abbiamo cercato, l'abbiamo ovviamente trovato. Credo che la squadra ha giocato abbastanza bene, siamo contenti, però sempre guardando un po' in avanti che bisogna migliorare, no? Partita dopo partita. La grande fiducia che Diego ha in te è una responsabilità o ti dà ancora più felicità? È sempre una responsabilità, e di più se viene del tuo allenatore è una cosa normale, ma ci sono qua e perché penso che posso prendere la responsabilità. Juan Sebastian Verón, adesso Oba Martins. Gli argentini hanno giocato più meglio di noi. Loro hanno avuto un'occasione di fare gol, anche noi, secondo tempo, però questo è calcio. Loro hanno giocato bene, hanno fatto gol, primo minuto, in primo tempo. Allora aspettiamo un'altra partita. Lavoriamo di giocare prossima partita con Grecia, però speriamo di vincere. Oba, un pensiero a questa Inter che ha vinto tutto, ti ha emozionato questa stagione trionfale? Guarda, loro hanno vinto tutto perché hanno giocato benissimo, loro sono bravi e io sono contento per loro. Oba, più meglio non si dice, nonostante i tanti anni in Italia, più meglio non si dice. No, naturalmente parla ancora benissimo italiano, bravo lui, bravo Oba Martins, al microfono di Dario Ricci. Aldo da Pisa, poi Mario da Firenze e poi Giulio da Piacenza. Aldo, buongiorno. Buonasera e complimenti, perché tenere viva l'attenzione in un campionato mondiale così non ma è no, facile. Davvero. Ma ci divertiamo squalido. Insieme, Aldo, ci divertiamo insieme. È squallido inizio, pochi gol, papere, gol su rigore, proprio un livello modesto. Siamo all'alba. Anche siamo cambiare un po' la formula. Ma non lo so, questo può essere un discorso interessante. Come un altro discorso interessante può essere anche questo, magari un giorno o l'altro, un giorno di questi lo facciamo, una sera di queste. Secondo me un minimo di vantaggio in più a chi vince il girone, a chi rispetto a chi arriva secondo. Ci vuole, questo può essere veramente così, c'è un appiattimento. Ad esempio anche quel pareggio ieri dell'Inghilterra alla fin fine può essere del tutto indolore, proprio perché intanto arrivando secondi sia praticamente la stessa situazione che arrivare primi, sì, credo. Poi all'ultima giornata scatteranno i calcoli, no? sugli incroci possibili, questo è fatale, è inevitabile. Piuttosto mi domando, ci lamentiamo, vabbè, è presto, no? Siamo dei lamentosi per definizione, del poco spettacolo, però mi domando anche se con questo livello di sofisticazione fisica e tattica che richiede il calcio adesso, non sia normale che le grandi squadre di club giochino meglio, offrano uno spettacolo migliore, siano, permettetemi, più forti delle grandi nazionali. Perché se ne parlava prima, no? Cappello non può andare a comprare sul mercato un portiere per una squadra che vuole vincere il mondiale, allora si tiene questo grinche fa le papere. Perché una squadra di club, ovviamente parlo di top team, si costruisce appunto con mesi e mesi di lavoro e si arriva ad un livello di sofisticazione fisica e tattica elevatissimo che le nazionali non possono avere. Forse può essere anche una chiave di lettura, chissà. Aldo. Sì, sì, mi sembra ineccepibile anche questo. Sicuramente io temo, essendo milanista, che una squadra come l'Inter vincerebbe questo mondiale. Può essere una, ovviamente un discorso puramente accademico, però ripeto, a livello di spettacolo calcistico, che non è necessariamente lo spettacolo del circo, io continuo a credere che i top team mondiali siano in grado di produrre qualcosa di meglio rispetto alle nazionali. Volevo dire qualcos'altro? No, volevo solo chiedere per favore una cosa. Questo espulso dell'Algeria, Ghezzal, quello del Siena, sì. Ah, è quello del Siena. Sì, lui. Quindi lui. Riusciamo a distinguerci anche nei mondiali. Nonostante il taglio di capelli improbabile, aveva cresta la moicana, che tanto va di moda. È proprio quindi non era facilmente riconoscibile, però Ghezzal del Siena. Doppia munizione, fuori. E la sua Algeria che al 73esimo e 6 minuti dopo ha preso il gol, partita anche in questo caso. È molto simile a quello che poi è successo con la Serbia, ha preso il gol dopo l'espulsione. Sì, vero. Insomma, oggi abbiamo visto gol dopo espulsioni, gol su rigore, papere, oggi papere, proprio una cosa penosa. E ci resta Germania-Australia di questa sera. Grazie. Mario Firenze, buonasera. Buonasera anche a voi, dottore, buonasera. Salve, dica. No, sento la radio sotto, quindi me la abbassi, me la spenga, grazie. Sì. Ascolti un attimo, grazie per farci compagnia, perché se vuoi almeno mentre viaggio vi ascolto. Benissimo. Però ho sentito mentre parlavate la televisione, che l'altro non mi ricordo come si chiama, il collega suo, sì, che praticamente lui dice vabbè, pagheranno, ma non scherziamo, perché ci buttano in faccia tipo l'isola dei famosi, che quest'anno poi ha fatto schifo, parlando per italiano, e magari ci fanno vedere una partita che non conta nulla per noi, e poi ci fanno vedere la nazionale, ma scherziamo, ma chi non fa vedere la nazionale? La TV italiana, ma no, fa vedere come la nazionale, Mario, la nazionale va, tutte le sue partite verranno trasmesse regolarmente dalla Rai, quindi la Rai semplicemente fa vedere una partita al giorno. Nel primo giorno ha fatto vedere quella inaugurale alle 16, gli altri giorni farà vedere quella delle 20:30. Quindi le cose stanno in questa maniera e non in modo diverso. Giulio da Piacenza, buonasera. Buonasera. Una considerazione: questo mondiale non mi sta decisamente piacendo, come credo ormai al 99% delle persone, perché a quanto pare dalle telefonate, anche soprattutto vostre. Sì, ma è presto. È presto, chiaramente mi auguro decisamente uno spettacolo migliore nel proseguo, così come non mi piace assolutamente il post partita, siamo all'apoteosi della penuria proprio. Io, è veramente lei allude ai salottini mondiali? Sì, sono veramente inascoltabili. Basta cambiare canale, non ce n'è come cambiare canale. Oh, per carità, ma infatti meno male che esistono i telecomandi, quindi. Esatto, libertà di telecomando, di andare a mangiare la pizza con me, perché io quelle cose non le guardo. Certamente. No, volevo innanzitutto chiamato per una semplice considerazione sulla nostra nazionale. Io quattro anni fa il mondiale è stato vinto con grande sorpresa mia e non solo mia, perché secondo me c'erano nazionali più forti, ma l'Italia si è dimostrata molto più squadra. Ma quello che dicevo un po' io, no, Giulio, cioè in un torneo che è per bellissimo, che a me piace da impazzire, no? Al di là della qualità del gioco, se te sono altre cose, quasi dettagli, è il torneo più bello del mondo, il torneo più bello che c'è, è il regalo di Natale per il nostro Natale profano. E al di là di tutto questo, se parliamo di livello di gioco, io torno a ripetere, per il calcio di adesso non si può forse chiedere di più a delle selezioni, a delle rappresentative. In questo mazzo di rappresentative l'Italia lo è un po' meno delle altre, perché Germania ha vinto perché si vedeva chiaramente una squadra vera, diversa, che aveva dentro qualcosa di più, no? Anche come contenuti tattici, oserei dire. Chissà che questo valore non possa emergere anche a questo giro, anche se evidentemente gli interpreti sono più vicini a Dubai che non al Real Madrid, tanto per usare un'esemplificazione. Vi avevo promesso avevo promesso a tutti gli juventini, più che altro, uno specchietto della partita di Krasic, che oggi ha perso a sorpresa con la sua Serbia. Dunque torniamo da Dario Ricci a Pretoria. Eccoci qua, Carlo, sì, stiamo aspettando i protagonisti di questa sfida per le interviste di rito. Direi deludente, anzi molto deludente oggi. Krasic nel primo tempo assolutamente fuori dal gioco, lui che è giocatore sicuramente di grande talento e tecnica individuale, voto? Ha fatto anche proprio fatica a controllare alcuni che alcuni voto gli, che voto gli daresti banali. In pagella? Il voto oggi è 4,5 a Krasic. Non si salva, e anche perché ha avuto la possibilità del riscatto con quella bellissima azione di Lazovic nel finale, e ha colpito anche bene, però molto centrale. King, insomma, ha potuto festeggiare il suo compleanno che ricorre proprio oggi con quella splendida parata, che poi è stato un po' alla vittoria del Ghana. Quindi direi totalmente insufficiente Krasic, così come un po' tutta la Serbia veramente, non molto meglio Stankovic, un 5. Quindi visto così al momento, ma chiaramente è una valutazione che è di primo impatto nella prima partita di un mondiale, di Nedved ha solo i capelli biondi. Ma sì, direi proprio di sì, e soprattutto non credo che abbia il passo per fare il Nedved, cioè è un giocatore molto tecnico, molto capace, di grandi qualità tecniche, anche se oggi non l'ha fatto vedere, ma a me tutto sembra meno che un Nedved, sembra un giocatore bravo a giocare a pallone, ma tutto da posizionare in campo, tant'è che è il problema anche della Serbia, perché sì, nel primo tempo proprio ha faticato a trovare la posizione. Ecco. Molto bene, grazie Dario, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. A, voi, grazie a Dario Ricci. Adesso ci fermiamo paio di minuti, forse tre, e poi torniamo insieme a 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Radio 24 presenta Destini incrociati, incontri che cambiano la vita. Un raffinato artista che vede un mondo tutto colorato, una pantera nera statuaria e bellissima, un incontro travolgente sullo sfondo di una New York nel suo periodo d'oro. Jean-Paul Good e Grace Jones, domani a Destini incrociati. Destini incrociati, tutti i giorni alle 15 e alle 23 su Radio 24. Esistono suoni che evocano immagini dalle forti emozioni. È un Infinity, sportività allo stato puro. È il sound del nuovo motore V6 Infinity ad alte prestazioni. Non sembra, eppure è un diesel. Nuovo Infinity FX e EX Diesel, il perfetto abbinamento tra un'auto sportiva e un diesel. Prenota un test drive su infinity.it. Infinity, inspired performance. Ciao mami. Ciao. Ciao papi. Ciao Elena, tutto bene a scuola? Sì, tutto ok. Ma Matteo dov'è? In camera sua a studiare. Vado a dare un'occhiata. Hai sentito, amore? Avevo ragione a installare le pareti Abito Casa Comfort. Isolati dai rumori con Abito Casa Comfort, il nuovo sistema a secco che ti offre isolamento termico e acustico, comfort abitativo ed elevata finitura estetica. Abito è una soluzione Gyproc Saint-Gobain. www.gyproc.it. Saint-Gobain, sistemi e soluzioni per l'habitat del futuro. A causa del contenuto altamente scandaloso, l'ascolto di questo annuncio è riservato ai soli automobilisti adulti. È un'offerta tremendamente sexy. 9 settimane e mezza, gratis. Direct Line offre su internet a tutti i nuovi clienti 9 settimane e mezza di polizza auto gratis. Scopri tutti i dettagli e fai subito il tuo preventivo su directline.it. Direct Line, consigliata da chi ce l'ha. Mina. You get me. Caramella. You get me. Caramella, il nuovo album d'inediti di Mina. Like a beautiful song. Grazie, ma adesso sentite, questa è fortissima. Allora, ci sono un meccanico, un falegname e un pasticcere. E anche un fioraio, un idraulico e un operaio. Ah già, è un elettricista. Lavoratori di tutto il mondo, sorridete! Peugeot, marchio estero numero uno nella vendita di veicoli commerciali in Italia nel 2010, festeggia 200 anni con tante sorprese. Su tutti i veicoli commerciali, solo il 2% di leasing. E incredibili vantaggi. Ad esempio, su Peugeot Boxer fino a 13.000 euro di sconto. L'offerta è valida con usato da rottamare, ma solo fino al 30 giugno 2010. Marco si sta chiedendo come investire i suoi risparmi. Il suo amico Gigi direbbe: te la do io la dritta, ma ha detto il salumiere, che gli ha detto lo zio, che gli ha detto la nonna, che gli ha detto un suo amico che gli aveva... In BNL, invece, dipende dai suoi obiettivi e le sue esigenze. L'investimento migliore è quello giusto per te. Progetta il tuo futuro consapevolmente con un consulente personale BNL e la competenza unica dei 5.000 specialisti in tutto il mondo del gruppo BNP Paribas. Chiama l'800-900-900 per un appuntamento in BNL. Last Minute Opel, si avvisano i passeggeri che solo a giugno Meriva One partirà da 11.650 euro. Last Minute Opel, solo a giugno, le offerte da prendere al volo. Meriva One con clima ed ESP da 11.650 euro. Vola dai concessionari Opel. Marta, cosa ho oggi in agenda? Alle 10 vola col 15% di sconto sulle principali tratte Alitalia nazionali e internazionali. Alle 14 accumula 3.000 miglia di welcome bonus al programma 1.000 miglia e alle 18 noleggia un'auto con l'8% di sconto. E stasera ha due ingressi nelle lounge Alitalia in aeroporto. Se hai la partita IVA, acquistando il nuovo Small Business Kit di Alitalia, gli sconti fino al 15% sono all'ordine del giorno, tasse e supplementi esclusi. Scarica il modulo di adesione su alitalia.com o chiama allo 06 22 22. Questo è l'ufficio export. Però quanto personale, che investimento. Eh no, ai nostri due interni ho aggiunto un export specialist in outsourcing. Ah, servirebbe anche la mia azienda, ma è venduto all'estero. Incarica un export specialist Comark. Nuovi mercati e incremento di fatturato a costi contenuti. Vedrai che metodi e strumenti di vendita innovativi. Oggi per vendere servono nuove soluzioni. Vendere all'estero? Chiama Comark. Comark ha un export specialist anche per la tua azienda. Chiama 800-123-640 o vai su www.aziendedisuccesso.it. State ascoltando un programma offerto da Niente Caselli, solo Castelli. Manda in ferie la tua auto, noleggiane una su europcar.it. A tempo di sport. Dopo la prima vittoria africana al mondiale africano, non potevo non chiamare Filippo Maria Ricci, anche se non so dov'è. Non so dov'è ed è anche caduta la linea. È stato tutta la settimana in Algeria per vivere in questo viaggio molto, molto affascinante che viene raccontato da Filippo Maria Ricci sulla Gazzetta dello Sport, il mondiale africano in paesi diversi dal Sudafrica. Quindi poi lo sentiamo, io spero. Intanto, già che ci siamo, Stati Uniti. Allora, ho deciso di viaggiare un po'. Simone Sandri, buongiorno. Buon pomeriggio Carlo. Come l'hanno presa i media americani, come hanno preso questo pareggio sull'Inghilterra? Stiamo elogiando il calcio statunitense che progredisce, che ovviamente non è più ai confini dell'impero, che pareggia questa partita di apertura dei mondiali, anche se il monumento a Green credo sia d'obbligo a Times Square. Sì, anche è vero, anche qui negli Stati Uniti si è parlato molto dell'errore di Robert Green. È anche vero che questa Coppa del Mondo è nata sotto ottimi auspici per la nazionale americana, perché veramente c'è un interesse senza precedenti nei confronti del calcio, nei confronti del soccer. Devo dire che oggi mi sono risvegliato pensando di essere in Europa, perché a parte il fatto che paradossalmente anche nella serata di ieri si parlava tantissimo un po' dappertutto della prestazione degli Stati Uniti, però oggi guardando i giornali è veramente incredibile. Basta pensare che a parte il fondio in prima pagina del New York Times sulla nazionale americana, ma il Daily News e il New York Post, che sono i due tabloid più importanti d'America, di New York ma anche d'America, entrambi hanno in prima pagina la foto della nazionale americana, elogiando naturalmente il pareggio, parlando anche, secondo me il New York Post è uno dei giornali dei migliori titolisti americani, dice US win 1-1, cioè gli Stati Uniti vincono 1-1, secondo me è un titolo straordinario, e fa capire un po' come hanno preso questo pareggio, che è vero che è figlio un po' della fortuna, di un pizzico di del gravissimo errore di Robert Green, ma è anche un esempio di maturità di calcio americano, che è riuscito comunque a giocare una partita per certi versi coraggiosa, iniziata malissima, perché iniziando il mondiale e prendere gol al primo tiro in porta per una squadra di secondo livello è sicuramente una cosa che può segnare un po' il cammino per il mondiale. Invece hanno risposto in maniera con grande personalità, secondo me, gli americani. Alla fine si può anche dire che hanno meritato questo pareggio. Sì, no, c'è dubbio che l'abbia meritato, ma poi comunque una squadra fisica, atleticamente pronta e organizzata, quindi è una squadra che ha tutti i diritti di, insomma, di non so se di sognare il passaggio del turno in questo girone, magari anche sì. Secondo me il passaggio del turno, innanzitutto la cosa che mi piace molto dell'approccio un po' degli Stati Uniti, non solo degli Stati Uniti squadra di calcio, ma sì, del paese, del pubblico in generale, è il fatto che ci sono delle cosiddette expectation abbastanza alta, nel senso che se gli Stati Uniti non dovessero passare il primo turno verrebbe considerato una sorta di fallimento, ed è una cosa secondo me molto buona, che fa capire che il calcio è arrivato un po' a un livello diverso, perché prima fare un risultato nella Coppa del Mondo era già qualcosa di... era già un successo. Adesso esatto, non passare il turno sarebbe secondo me considerato una sorta di fallimento. Se la giocano la Slovenia, ho l'impressione. Simone, come si vedono i mondiali negli Stati Uniti? Ovviamente bene in televisione, questo è chiaro, però come quanto? Secondo me questo mondiale, anche per via della copertura di ESPN, che è una copertura senza precedenti, perché Sports Center, che è la trasmissione sportiva più importante. Ma quindi sono in chiaro per tutti, tutte le partite? No, sono in chiaro su alcune partite, però la verità è che ESPN è una televisione via cavo, e la televisione via cavo ormai è considerata a una tale, esatto, ormai ha un'espansione tale per la quale praticamente tutti gli americani ce l'hanno, per cui non tutti gli americani hanno la possibilità di guardare i mondiali, ma la cosa che mi piace è il tipo di copertura, perché siamo in un momento di finale NBA, siamo in un momento importante per il baseball, sono appena finite le finali NHL, si parla di LeBron James, per cui è un momento sportivo molto importante, eppure SportsCenter, la ESPN, cioè la televisione madre dello sport americano, parla tantissimo di calcio, apre i suoi telegiornali sportivi con il calcio, con i mondiali, per cui è sicuramente una cosa importante. E poi, se vai in una città come New York, che rappresenta in un certo modo l'America, perché New York è la città più internazionale forse del mondo, è veramente straordinario, perché in ogni angolo di strada ci sono un po' ritrovi di tifosi diversi, ci sono i pub che sono pienissimi, e comunque per la prima volta vedo una grande rappresentanza americana, ed è abbastanza interessante, perché fino all'ultimo mondiale si parlava di come viveva l'America il mondiale attraverso le varie etnie, attraverso le varie tifosi internazionali. Invece adesso c'è una cultura anche sportiva proprio di calcio, che è interessante, e si vede credo anche nei bar, nei pub, dove ci sono anche rappresentato il tifo, dove c'è rappresentato il tifo americano. Poi tra l'altro ieri erano tantissimi statunitensi a vedere la partita degli Stati Uniti laggiù in Sudafrica. Invece loro parlano di calcio, io vorrei parlare con te della finale NBA che mi sta tenendo sveglio a notti alterne. Questa sarà una di quelle. Una finale meravigliosa, secondo me. Sono d'accordo, è una finale molto intensa, molto e molto intensa. Incerta, molto più incerta di quello che ci si aspettava un po' tutti, io per primo. Devo dire che da un punto di vista tecnico non sono magari così esaltato, perché abbiamo visto anche delle partite non bellissime. Ma Simo, lo sport non è solo tecnica, è anche questo, è vedere questi due pugili che non ce la fanno più, che non hanno più energie, che sono al 12° round e continuano a mollarsi cazzotti alternati, quindi lo sport a me piace così, mi piace anche così. Sì, sono d'accordo, però è anche vero che se vedi, sono d'accordissimo, se vediamo i giocatori di Boston che alternano prestazioni eccellenti con prestazioni disastrose, quello lascia un po' deluso, secondo me, da quel punto di vista, dal punto di vista dell'individualità, lascia un po' deluso lo stesso Kobe, che gioca, alterna dei canestri straordinari, magari cose un po' meno belle, però sono d'accordo, e sono d'accordo con te che è sicuramente una finale molto, molto intensa, e molto divertente, e molto bella da guardare per tantissimi motivi, anche per il fatto che è assolutamente imprevedibile, perché non solo il punteggio cambia, il gioco cambia anche dal punto di vista della strategia, però ogni volta sembra che ci sia un personaggio diverso che sale in cattedra. Adesso per esempio la panchina di Boston, l'ultima partita è stata la panchina di Boston, difficilmente ci saremmo aspettati che la panchina di Boston potesse essere risolutiva in una finale NBA contro i Los Angeles Lakers. Esatto, proprio così. Grazie Simone. Hai detto tu, è stato assolutamente imprevedibile. Grazie a te. Grazie Simone Sandri da New York, grazie, a prestissimo. Stefano, provincia di Imperia, 800 24 00 24, numero verde. Pronto, buonasera. Buonasera. Scusi, volevo fare una domanda, perché mi piace molto lei come giornalista, quindi volevo sapere un suo grazie. Parere. Ho letto ieri, cioè ho sentito ieri l'intervista che ha fatto Gattuso, quindi io premetto che sono un tifoso dell'Inter, ma io Gattuso l'avrei voluto nell'Inter tutta la vita, quindi non è la persona, perché per la persona un grandissimo rispetto come tifoso di calcio. Stefano, ma quale intervista? Questa? Stia lì, questa? Io ho un sogno nella mia vita, non so dopo se si avvererà, ma è... E di fare un mondiale con la nazionale da allenatore, ma speriamo. Sento dire che non ho più benzina, che non ho più fame. A me non mi risulta questo. A me mi risulta che la voglia c'è, e il fatto del capitano non giocatore, no. Io voglio essere il numero 8 della nazionale, che quando verrà chiamato in causa dare il mio contributo. Il capitano ce l'abbiamo. Meno polemiche si fanno, meno cose si dicono, e meglio è. Perché ogni... se dici qualcosa di sbagliato, il giorno dopo politici e altre persone ti sparano a zero. Capisci che è meglio stare tranquilli. Ma il problema è la strumentalizzazione che viene fatta ogni giorno, ma non solo con la nazionale, nel mondo del calcio, ma non di voi giornalisti, di chi... Io penso che parecchi giocatori non parlano mai di politica e non capisco perché i politici ogni volta che ci sia un evento importante parlano sempre di calcio. Questa è una cosa che mi fa diventare matto. Questa no, Stefano? Sì, era questa qui, però riferita a un altro punto. Comunque sono d'accordissimo con lui su quello che ha detto. Ah, certo. Io volevo semplicemente dire una cosa quando fa il paragone fra Balotelli e Totti. Mm. Adesso io non l'avrei portato Balotelli al Mondiale perché secondo me non è ancora pronto, quindi non sto parlando per portarlo o non portarlo. Però io vorrei un attimino dire una cosa e sapere cosa ne pensa lei. Cioè, il paragone con Totti non regge, perché Totti ha sputato in faccia avversari, ha tirato calcio ai ragazzi di 19 anni, sì, rincorrendoli per mezzo campo. Ma no, ma non c'entra nulla. Sono i due nomi, sono due dei nomi più gettonati. Poteva metterci in mezzo anche Cassano. Non starei nemmeno a raccontare gli errori che ha fatto Francesco Totti. Si parla semplicemente dei giocatori di talento, che sono pochissimi, dei giocatori di talento così enorme che abbiamo in Italia, che sono rimasti esclusi dal mondiale per una scelta precisa che Gattuso ha spiegato anche lì in maniera estremamente chiara. Cioè Lippi vuole una squadra di giocatori, non vuole in questo gruppo giocatori che si fanno i cazzi propri. Ha detto così Gattuso, non l'ho detto io. E quindi, insomma, la scelta che ha fatto Gattuso è stata, che ha fatto Lippi, è stata questa. Poi discuteremo all'infinito dell'esclusione di questi giocatori. Comunque sono quelli che dopo N edizioni dei mondiali alla fine ci mancano, no? Perché da quanto tempo avevamo Totti, Del Piero, Baggio, Rivera, Mancini per accendere la nostra fantasia mondiale. Adesso non ce li abbiamo, adesso abbiamo questa squadra che domani va in campo. Vediamo come anche. Traffico. Strade in diretta. Traffico intenso per i rientri dal mare verso le grandi città, ci sono code verso Genova dalle Riviere, su tutte le autostrade in direzione Firenze e verso la capitale. Sull'autosole 5 km di coda tra la Complanare di Piacenza e Piacenza Nord in direzione Milano per un incidente. Sul tratto appenninico della 1, 6 km di coda tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione Firenze per un veicolo in panne. 2 km di coda poi tra la 24 e la diramazione Roma Nord verso Firenze per un tamponamento tra più mezzi in corsia di sorpasso. Attenzione sulla 13, Bologna-Padova, sono in atto forti temporali, ci sono code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova e allagamenti in entrata ad Occhiobello. Forti temporali anche sulla 6 Torino-Savona, code in direzione Torino tra Carmagnola e Torino. Trafficata la 3 Napoli-Salerno, ci sono code in direzione Napoli per un incidente tra Torre del Greco e San Giorgio Ponticelli. 6 km di coda sulla 18 Messina-Catania per un restringimento di carreggiata tra Fiume Freddo e Acireale in direzione di Catania. Sulla 20 Palermo-Cefalù, code di 2 km tra Cefalù Ovest e la barriera di Buonfornello in direzione di Palermo. Infine, per lavori, rallentamenti e code sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est in direzione Brescia. È tutto, a più tardi. A tempo di sport. Con tutte queste code vediamo se saranno tutti potenziali ascoltatori, no? 800 24 00 24. Ho un messaggio, ho letto lo splendido articolo di Filippo Maria Ricci, ma non è un po' troppo pericoloso come viaggio? Sono molto preoccupato anch'io. Infatti non c'è Filippo Maria Ricci. È molto pericoloso come viaggio questo che sta facendo Filippo e sono preoccupato, spero che sia possibile collegarci. Sono meno preoccupato invece per Lorenzo Amuso, vediamo se lui c'è dall'Inghilterra. Non c'è nemmeno lui e allora niente, allora adesso recupereremo qualcun altro. Io volevo parlare con Filippo Maria Ricci per questo viaggio che sta facendo, ma poi anche perché da profondo conoscitore del calcio africano era il modo migliore per festeggiare la prima vittoria di una squadra africana nel mondiale di casa. È arrivata oggi con il Ghana, lo ricordo, che ha battuto 1-0 la Serbia, gol di Gian su rigore al 79esimo di partita. Lo stesso Gian stava per raddoppiare a tempo scaduto. Dovrebbe esserci. Filippo Maria Ricci, ci sei? finalmente sì, eccoci. Ma sono, ero veramente in pensiero. No, perché ho appena letto un messaggio che di un ascoltatore, scrive: ho letto lo splendido articolo di Filippo Maria Ricci, ma non è un po' troppo pericoloso come viaggio? Io non so neanche dove sei, sono molto preoccupato. Sono ancora ad Algeri, sto tornando a Madrid e domani si va a Abidjan, domani comincia il ballo, quello vero, via. Ma qui è stata una piacevolissima sorpresa, sì, anch'io pensavo potesse essere anche... non so, sì, qualcosa di pericoloso o di poco amichevole. In realtà una città che consiglio vivamente, Algeri, e anche penso un paese molto molto bello. Addirittura ho scoperto che a 30 km, 40 km da Algeri si va a sciare. Ma dai! Presumo, no, presumo che non siano proprio le piste delle Dolomiti, no, o siano ski lift piuttosto, però questa è la realtà, insomma. Quindi sono, il mondo è pieno di sorprese. Senti, all'aeroporto però sei arrivato con calma, con tranquillità, visto che l'Algeria ha perso 1-0, se no dovevi partire, esatto, era un po' difficile il percorso, eh sì, non ero pronto al piano B. Esatto, sì, ero pronto per andare via un po' prima della fine, e quando ho avuto quella grande occasione ho detto qui magari forse lo fanno il gol. E poi però io ho sempre detto dal primo giorno che il fatto che gli abbiano riabilitato il portiere, che era stato squalificato per 3 giornate per aver dato una testata all'arbitro, però la FIFA fa come gli pare, quindi la testata è stata dimenticata, in realtà potesse pregiudicare il rendimento dell'Algeria, e così è stato. Quel portiere, certo, è scarsissimo, e la povera Algeria per me ha già chiuso il suo mondiale più o meno. Sì, l'abbiamo visto tutti quanto è scarso così. Filippo, però volevo che fossi tu, prima di lasciarti prendere l'aereo, a salutare la prima vittoria africana, quella del Ghana sulla Serbia. Finalmente. E così anche il primo gol di un attaccante, no? Non so, non hanno segnato molto gli attaccanti, sì, finora. E sì, finalmente ci voleva, perché al quinto tentativo adesso rimaneva solo la Costa d'Avorio, che tra l'altro è una partita complicata col Portogallo. No, penso il Ghana abbia fatto bene, si sa che è una squadra interessante, e secondo me questo era già lo spareggio per arrivare al secondo posto dietro la Germania, quindi io il Ghana lo vedo ben avviato, sì, insomma. Sì, sì, sì, sì. Era una partita importante, l'hanno per me giocata bene, sempre con qualche rischio e tutto, però insomma la Serbia è una signora squadra, insomma, ecco. E il Ghana ancora una volta, insomma, si fa vedere che non hanno il centravanti, certo, giocano sì, con della gente un po' così rimediata davanti. Se avessero Balotelli potrebbero vincere il mondiale. Addirittura. Questo è tanto, per fortuna sono quasi in chiusura di trasmissione, sennò mi scoppiava il centralino. Non farmi stare in pensiero, eh? No, vai. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Continueremo a sentirci, vedremo, insomma. Da domani si va nell'Africa Nera, forse le telecomunicazioni sono meno pronte, ma in realtà non è detto. Mi raccomando, se non riusciamo a sentirci per telefono ci scambiamo delle pubbliche email. Con, va bene, d'accordo. Così teniamo partecipi gli ascoltatori di questo tuo viaggio, oltre che lettori della Gazzetta. Un salto in Inghilterra, Lorenzo Amoso, salve. Buon pomeriggio. Allora, cosa hanno detto di Green? Ma ovviamente tutte le prime pagine dei giornali parlano della papera di Green, con toni differenti. I tabloid sono catenati contro il portiere del West Ham. Le mani dello stupido l'hanno definite le mani di Green. Giù, leggeri, sì. Le mani dello stupido. Con i loro soliti toni molto, molto civili e molto rispettosi. E su Capello cosa hanno scritto? Esatto, dicevo che invece i giornali sono un pochettino più seri, oltre a evidenziare ovviamente l'errore di Green. In realtà poi sul banco degli imputati mettono un po' tutta la squadra, il Capello compreso. Capello è stato criticato più che altro per le sostituzioni, e sia per la scelta di Green piuttosto che James o Hart, ma anche per le sostituzioni, quando a sinistra dopo mezz'ora ha tolto Milner, si aspettavano tutti che potesse mettere Joe Cole, che nelle ultime partite era sembrato quello più in palla, in realtà poi ha messo Wright Phillips, che non ha per niente convinto. Anche in difesa la scelta di sostituire King con Carragher piuttosto che con un centrale che anche lì ha giocato una stagione migliore, cioè Upson, non ha convinto fino in fondo. E in attacco, insomma, Eskie è stato preziosissimo in occasione del gol dell'Inghilterra per il passaggio a Gerrard, però è un giocatore che insomma non segna mai, non è, 57 no, partite, ha segnato 7 gol, e ci si chiede insomma se l'Inghilterra possa permettersi il lusso di avere un attaccante che non segna. Forse ecco, valeva la pena provare prima la carta Crouch o addirittura non stiamo parlando comunque di Milito, stiamo parlando comunque di giocatori di secondo piano, però l'Inghilterra ha fortuna di avere Rooney, e non tutti hanno questa fortuna. Grazie a Lorenzo Amoso, io Vi confesso, non riesco a seguire il Gran Premio, però abbiamo la fortuna di farcelo raccontare. Siamo a metà corsa più o meno in Canada, abbiamo la fortuna di farci raccontare questa prima metà da Mario Poltronieri. Mario, ciao! Ciao! Cosa sta succedendo? Beh, diciamo che questa è una gara praticamente, fino adesso siamo appena oltre la metà gara, decisa soprattutto dalle gomme. La Bridgestone ha portato delle gomme abbastanza strane, per usare un eufemismo, per cui c'è la continua necessità di fermarsi ai box e cambiare le gomme. A questo punto è in testa Webber con Hamilton, terzo Alonso, quarto Button e quinto Vettel, quindi i favoriti sono comunque in testa, però si tratta di vedere adesso, dopo due o tre fermate che sono già state fatte per cambiare le gomme, che cosa succederà nella seconda parte della gara. Vedremo, è impossibile fare delle previsioni, perché un po' il tempo mutevole, un po' le gomme, che sia nella versione super soft sia nella versione dura non sono perfettamente adatte alla situazione presente, è chiaro che possono determinare qualsiasi risultato. Però mi sembra di vedere che anche Alonso stia andando bene, controlla la situazione, Vettel è in rimonta, Webber è soddisfatto di essere davanti, Hamilton è sempre pronto però ad arrivare, ma come dico, la corsa sarà determinata soprattutto dal cambio delle gomme. Vedremo come andrà. È rimasto fuori gara, nel senso che insegue velocissimo, ma dalle ultimissime posizioni, Massa, che nella fase iniziale si è ruotato con Liuzzi, che era partito in quinta posizione, quindi il miglior risultato dell'abruzzese, e che purtroppo è rimasto anche lui coinvolto. Anche lui si è dovuto fermare, come molti altri, a cambiare musetti, gomme e così via. Compromessa la gara. Grande spettacolo senza che si capisca niente. Li lasciamo così, nostro ascoltatore. Grande spettacolo senza che si capisca niente, con un Alonso che però è competitivo, quindi vi suggerisco di restare con noi, perché nei GR poi ve lo diciamo. Grazie a Mario Poltronieri dunque per questa pennellata sulla Formula 1. Noi ci risentiamo dalle 8:30 alle 9 per il basket. Inizia la finale scudetto, non sono solo mondiali queste domeniche di giugno. Grazie Fabio Cantadone in regia, Giorgio De Luca in redazione, a dopo. A tempo di sport.